Quando mai vuol dire un sempre? Quando un sempre è un paradosso? Quando per capire il senso devi andare in controtempo? Quando sei soltanto un'ombra nella vita di qualcuno e ti basta perché senza non saresti più nessuno? Quando la comodità di un amore intermittenza ti presenterà il suo conto e non sarà mai abbastanza? Quando il tempo sfoglierà le pagine di questo amore e ti sembrerà assurdo non poterlo raccontare? Perché amare fino in fondo è uno stato innaturale che prevede l'esclusione di ogni forma razionale. È un lanciarsi senza rete tra i coriandoli e le rose. È un bastione da scalare, è la mente che si illude. Quando recintare il cuore con una gabbia di spine sembrerà la soluzione più adeguata per star bene. Quando avanzare un rischio più rischioso è non rischiare, e non c'è utopia più grande del doversi accontentare. Quando vivere a metà è una forte tentazione che si eclissa in un istante dove affonda la ragione. Quando il mondo è in controluce e ti senti un negativo, modula l'esposizione, non cambiare l'obiettivo. Perché amare fino in fondo è uno stato innaturale che prevede l'esclusione di ogni forma razionale. Lanciarsi senza